Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, sono le 9-8 minuti, i funamboli sono tornati, si sono riuniti con tutti quanti. Peter Bescapelli in regia, in redazione Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi. Salutiamo anche Alessandro Chiappini lì a Roma, tecnico. Cara Veronica Gentili. L'hai visto passare dal monitor? Sì, si vede quando passa da un monitor. Il grande Alessandro, grande, un abbraccio. Ha una grande stazza per un grande uomo. Sì, certo. Cara Veronica, buongiorno. Io oggi mi sono svegliato, ho preso i giornali, ho detto sì, che bella notizia, sì. Che cos'è che ti ha dato questa gioia? Ci ridanno forse Cesare Battisti dal Brasile. Sì. L'ho letto. Terrorista. Incredibile, ma vero, ma sembra che possa essere così. Assassino ergastolano. Sì. Ce lo ridanno, sì, per una questione di giustizia. Forse, forse ce lo ridanno. Potrebbe essere arrivato il momento. Potrebbe il dossier essere sembra essere quasi pronto per essere attenzionato. Vale. Abbiamo aspettato un attimo, insomma, sì, c'è stato un attimino d'attesa, però sembra che sia per arrivare il momento. Io spero in nome dei parenti delle vittime, in nome di tutti coloro che hanno cercato una giustizia per anni, che Cesare Battisti possa tornare in Italia a scontare i 4 ergastoli a cui è condannato. Guarda, prima ho detto, se succede prendo una bottiglia di spumante, scendo nudo in piazza e urlo al vento. No, così non lo dire, perché sennò non ce lo ridanno più. No, non credo che questo cambi le cose. Sicuramente se poi ti sentono, se ti sentono, è evidente che poi non ci viene assolutamente restituito. Non lo Quindi, farò, per favore, peraltro. Ritratta. Non lo farò. È stato un attimo in cui ho perso la testa, però. No, perché è una procedura delicata. Perché devi mettere, no? Diciamo, vado all'aeroporto ad accoglierlo per guardarlo in faccia in silenzio e dire, sei tornato, era ora di tornare. Però devo dire, speriamo, ecco, purtroppo dal Brasile tante volte ci sono state delle sorprese negative a riguardo, quindi è veramente una vicenda in cui ne abbiamo viste di tutti i colori. Pensa che c'è stato addirittura il tempo per cui tutta una serie di intellettuali fossero all'inizio, no, lo sostenessero e avessero il tempo di ripensarci, ritrattare, riscrivere a riguardo. È stata un'epopea. Sì. 4 ergastoli, ricordiamo, terrorista che non ha mai scontato la pena, ma anzi ha sempre sbeffeggiato il sistema giudiziario italiano e con questo anche le vittime e i loro parenti. Comunque, cara Veronica, alle 9:10 minuti oggi vogliamo parlare di tanti temi come sempre. Sai da cosa partiamo? Da un qualcosa che non ci mette proprio nei primi posti della classifica italiana, se la vediamo a livello virtuoso, la corruzione. Siamo in testa, nel senso, a livello di corruzione, che vuol dire non passarsela proprio bene. Che non è un buon segno, non, insomma, buon come segno. Dire, essere in testa alle classifiche di solito sembra buono, sul in tema corruzione caso, non è bene. No. Dai, alle 9:11 minuti, partiamo da qui. Tra l'altro, quando si parla di corruzione, devo dire che Transparency International Italia, e ne salutiamo il direttore Davide Del Monte, buongiorno. Buongiorno. Ogni anno e periodicamente fa questa classifica che ci piazza nell'ultima classifica. Quanto, a che posizione a livello europeo, a livello mondiale, Del Monte? Allora, la classifica, bisogna dire, è stata pubblicata a gennaio, sì, la classifica, sì, l'indice della corruzione percepita. Purtroppo, come già negli anni precedenti, non va molto bene per l'Italia, nel senso che ci siamo ritrovati al 60° posto al mondo, ma soprattutto la cosa che fa più male, terzultimi in Europa, con dietro di noi solo Grecia e Bulgaria, ecco. Cioè, Grecia e Bulgaria sono peggio di noi, questo come percezione della corruzione. Come percezione, sì. Tutto il resto dei paesi sono più virtuosi, esatto. In Europa, così almeno vengono percepiti. Questo qua è un sondaggio che viene fatto non sui cittadini, ma su su Uomini d'Affari. Infatti è interessante, leggevo, ma come si svolge? Cioè, è un test? È un sondaggio però qualificato. Ecco, cioè non è la domanda, diciamo, al singolo cittadino, secondo te il tuo paese è corrotto, ma vengono selezionati, insomma, i cosiddetti grandi businessmen internazionali, e si chiede, secondo voi, quel paese quanto è corrotto e quanto rischiereste di investire, ovviamente, o di non investire. Infatti molti ci scrivono, alcuni già ascoltatori, al 349-238-6666, la concezione di corruzione percepita e non reale. Parte che è come se questo sminuisse la questione. Se uno indaga tra i businessmen, tra gli uomini d'affari, tra i manager, tra le persone che lavorano nel pubblico, e la percezione di una corruzione è altissima, vuol dire che poi, ecco, quanto c'è di corruzione reale di quella percepita? Allora, quello che vi posso dire è che quantificazioni ne sono state fatte tante e sono state tutte poi smentite, no? I famosi 60 miliardi, non so se ve li ricordate, 60 miliardi di euro di cui si parlava fino a qualche anno fa della Corte dei Conti. Quello che noi siamo riusciti a fare, è cercare di quantificare come le leggi funzionano e quanto vengono applicate per quello che riguarda l'anticorruzione in Italia. Quindi abbiamo presentato con il ministro Orlando e con Cantone proprio due giorni fa questo report, Agenda Anticorruzione, in cui abbiamo dato una valutazione dell'efficacia della normativa anticorruzione in Italia. E vi posso dire che tutto sommato, che se ne possa pensare, le norme che noi abbiamo sono più che sufficienti. Ma questo è uno degli aspetti, infatti, troppe, di cui io volevo parlare, cioè il problema tra le norme esistenti e l'applicazione delle norme, perché poi è qui uno dei punti di contraddizione su cui leggevo che anche Cantone ha molto, ha battuto molto su questo. Ma sì, certo, perché il problema italiano è proprio questo. Noi abbiamo forse fin troppe norme anticorruzione. Dal 2012, anno della legge Severino, a oggi sono state approvate dal Parlamento circa 12 leggi che hanno a che fare con anticorruzione, trasparenza, la prescrizione, la confisca dei beni. Cioè, quindi capite che 12 leggi in meno di 5 anni. Ma oltretutto da febbraio ne sono state varate altre 3. Perché c'è quella della corruzione il decreto per la corruzione tra privati, quella sull'antiriciclaggio, che dovrebbe aver sortito anche degli effetti, e quella sugli appalti nel settore pubblico, privato e nella società civile. Nonostante questo, ma è proprio forse questo, abbiamo una bulimia di leggi e poi non si applica. Però Del Monte, rimanga con noi, perché vogliamo presentare un manager che ha scritto un libro per Ponte alle Grazie. Il titolo è Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico. Lui è appunto un manager pubblico. In questo libro, tra l'altro, c'è anche un'intercettazione di un magistrato intercettato che disse: ma questo Piero Bon è proprio l'unico coglione in Italia che non prende le mazzette. Alberto Piero Bon, buongiorno e grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno a voi. È vera questa intercettazione, perché a un certo punto, in un'indagine, lei era l'unico che le mazzette le rifiutava. Beh, è verissima naturalmente, anche perché lo seppi qualche anno dopo e sì, in quel caso specifico sfortunatamente sono stato l'unico, per fortuna poi ho scoperto che tanti altri si comportano come me. Perché questo è importante da dire, non tutti sono corrotti. Che effetto ne fa però sentire che siamo tra gli ultimi posti in Europa? È così, visto che lei ha lavorato anche molto all'estero? Nulla di nuovo sotto il sole. Cioè? Ma è una percezione, a parte la percezione, ma insomma chi vive negli ambienti reali, soprattutto sopra un certo livello, non dico il self service degli sportelli pubblici, ma dove si fanno le regie degli appalti e di tutta la finanza pubblica, è chiaro che insomma conosce e non solo annusa questi fenomeni. Poi le leggi, diceva prima l'interlocutore, sono più che sufficienti. Sì, ne abbiamo, lei ha detto giustamente, una bulimia, nel senso che ci stiamo soffocando, ma la carnalità del diritto mostra che si fa tutt'altro, cioè sono leggi palcoscenico il più delle volte, perché alla fine dall'altra parte si usano queste leggi proprio per compiere meglio queste birbonate, che non sono birbonate naturalmente, sono nel senso che poi l'applicazione non rispecchia la legge, anzi è strumentale. Ma non solo, ma poi anche chi è chiamato ad applicarla ha regole diverse caso per caso, ma gli stessi, adesso non voglio naturalmente essere un pensatore invertito a 180 gradi, ma così è, cioè gli stessi organi di controllo il più delle volte dovrebbero essere azzerati. Sì. Tra l'altro, diciamolo, perché Piero Bona è stato a capo di un'azienda intercomunale di servizi pubblici, ha partecipato in varie commissioni ministeriali in materia di rifiuti, amministratore di società pubbliche, è stato anche nella gestione del commissariamento dei rifiuti in Campania, se non sbaglio, a Napoli. Ecco. Ahimè. Perché dice ahimè? Perché ho visto cose, cioè ce ne dica due o tre, ho visto cose, il titolo del libro, poi, cosa ha visto? Di estrema attualità, guardi, Blade Runner è appena riuscito al cinema, il seguito, esatto. Quindi... Ho visto... Ecco, brava, spero di non vederne più di queste cose, le dico la verità. Ma ce ne dica alcune. Una volta sognavo, adesso non sogno più. Per gli ascoltatori che non hanno letto non so, anche all'estero, per dire, perché poi naturalmente uno si misura non solo... nelle nostre province, ma naturalmente su aspetti anche di contributi internazionali, di progetti, e lì la palestra è eccezionale secondo me, cioè la fantasia è minore della realtà, cioè la realtà di come si praticano certi fenomeni corruttivi in cui naturalmente non è solo la ricchezza quello che prevale, ma il potere, gli onori, le prebende. Cioè si comincia, che ne so, con una cena, offrendo anche belle ragazze, eccetera, e poi si arriva a tanto altro. A corruzione, appalti truccati, ma è tutto così. Sì, cioè, sì, no, ma poi è vero, cioè, c'è uno scambio a volte che prevede anche il baratto, quindi non è soltanto uno scambio economico. L'esempio delle belle ragazze è funzionale, ne abbiamo visto. Sì, non è diversi, mai un caso, no? Non è mai un caso. Viene, cioè, non arrivano casualmente. Anche perché c'è un gioco di squadra naturalmente, cioè... certo. No, tra l'altro io un anno fa circa ci eravamo sentiti per un'intervista, sì. E io mi ero tenuto da parte una risposta, mi diceva Piero Bon, non vi stupirà, visto che ha lavorato molto nella gestione dei rifiuti, non salti sulla sedia, ma ci sono, scoprirà che ci sono dei rifiuti raccolti in Italia che stranamente poi finiscono in porti asiatici, in Pakistan, in Cina, e vengono ovviamente rivenduti in maniera tutta illegale. Oggi se ne parla anche oggi. Il Fatto Quotidiano, pagina 9, rifiuti sporchi in Asia per 46 milioni di euro l'anno, da Orvieto a Viterbo partivano tramite i porti di Civitavecchia e Livorno, La Spezia e Genova, e raggiungevano Ravenna, arrivavano in Cina, esatto. Pakistan, Indonesia, Corea. Ma perché? Perché Piero Bon questo tipo? Bravissimo. Intanto parliamoci chiaro, ci sono dei porti più porosi dove passano più veloci, più nascosti, più in accordo con i controllori, e dei porti che vanno a turno, cioè so che in quel momento mi controllano di più in quel porto, mi sposto dall'altra parte anche a costo di effettuare un trasporto su gomma. Quindi poi cambiano anche le destinazioni, cioè mentre una volta era molto gettonata la Cina, adesso la Cina per fortuna sta cambiando anche la mentalità in tema ambientale, per cui non so, più gettonato il Vietnam, la Cambogia e altri posti, cioè è come tutto illegale, quando... cioè tutto illegale. Questi rifiuti dove dovrebbero andare invece? Dovrebbero essere riciclati? Beh, allora adesso qua sì, bisogna andare caso per caso, non possiamo usare una regola generalista, nel senso che dipende dalla tipologia, se sono materiali ferrosi, se sono, che ne so, cartone che allora è valorizzabile, se sono speciali pericolosi, se sono materiale plastico per il quale le nostre attrezzature, le nostre normative ambientali non permettono una separazione così dettagliata, per cui cosa fanno? Purtroppo le mandano in certi posti del cosiddetto terzo mondo, nel quale purtroppo delle manine di bambini con solventi e altro aiutano a separare questo materiale, portano dei container, addirittura io ne ho visti fuori dalle capanne, e lasciano lì, e la famiglia in un mese separa questo materiale, butta tutti gli scarti dentro i fiumi o lì in terra, e quindi il problema, insomma, si amplifica. Sì, ma nel momento in cui tutto questo viene denunciato, ci spieghi meglio, Piero Bon, cosa accade? Cioè, qualcuno deve a quel punto agire, muoversi, oppure tutto rimane così? È brava, dipende. E no, perché lo troviamo sul giornale di Veronica oggi, Gentili, e Veronica lei Gentili ne ha parlato. Chi c'è dall'altra parte? No, l'altra parte dico di chi dovrebbe attivarsi. Beh, lo Stato, le procure, i magistrati. È un termine astratto, capito, però poi, Piero Bon, non ci sono tante anime anche nelle procure, ci sono tanti bravissimi magistrati, ci sono altri che insomma siamo, non possiamo. Però così ci dà uno spaccato, voglio dire, che l'Italia la prendiamo, la buttiamo in un pozzo e è una concezione realista. Poi, per carità, io sono anche ottimista, nel senso che spero che le cose possano migliorare, e ne ho anche conferma da mail, telefonate che mi arrivano da molta brava gente, anche dai, insomma, insospettabile, nel senso che... No, perché una volta diceva, all'estero anche rubano, ma se là sono, come dire, alle scuole medie, noi siamo l'università del crimine. Certo, ecco, capisci, certo. Che non è una bella sì, fotografia. Sì, abbiamo anche esportato dei modelli, cioè... bello, no, ci sono diverse cose che si esportano, tra cui il modello su come corrompere meglio in maniera più efficace. No, per dirle, faccio un esempio concreto, sì. Tentai anni fa di avviare un'iniziativa trasparente, pulita, addirittura supportata istituzionalmente per il recupero di rifiuti plastici in Africa, e lì dovetti girare i tacchi, ma chi mi trovava dall'altra parte, pensavo di trovarmi un manager indiano, in realtà dietro c'erano dei fratelli italiani, cioè mi capisce, cioè, siamo ovunque, assurdo. Quando si suol dire siamo ovunque. No, io voglio dire, è uno spaccato, Veronica, che mi inquieta molto. Tra l'altro sui rifiuti soprattutto. Molto deprimente. Poi anche l'aspetto della società civile, che ancora, in genere la società civile media, che ancora non riesce a calarsi nell'impresa del combattere la corruzione, perché poi sembra essere necessario anche questo, cioè che le persone nella media abbiano culturalmente un'attitudine che li spinga a non essere conniventi o non dare per assodato quello che... E questo è un lavoro ancora più difficile, perché è un lavoro di natura culturale. Sì, tra l'altro il settore in cui c'è più esperienza da parte di Piero Bono è proprio quello dei rifiuti, e che poi li vediamo nelle nostre città, i rifiuti, no? Capisce? Quindi concretamente perché c'è questo sistema in alcune città dove non funziona il sistema smaltimento? Lei dice che è voluto questa cosa. Scusi, chi è nella stanza dei bottoni conosce le regole, conosce i meccanismi, non sono tutti incapaci, chiaramente, e quindi se le cose funzionano in un certo modo è perché si vuole che funzionino in quel modo, cioè, non so, un direttore che si presta a fare queste cose è un direttore che è gradito in quanto è funzionale, ma è funzionale in quanto è condizionabile, non so se mi spiego. Certo. E quindi se fa parte di quel progetto è una squadra che deve realizzare. È vero progetto. Che lavorano sempre le stesse aziende o gli stessi consorsi? Insomma, in generale, parliamoci chiaro, ma questo non lo dico io, lo dice anche la letteratura economica. Nel mondo dei rifiuti c'è un oligopolio collusivo, cioè poche ditte che si mettono d'accordo, si spartiscono territori e gare, eccetera. Questo è notorio. Poi in questo ultimo momento, perché dobbiamo ragionare con categorie evolute, sono le società pubbliche quelle che fanno la parte del leone, paradossalmente, che quindi invadono anche i campi dei privati. Cioè stiamo un po' rovesciando... Perché il punto è sempre questo, e ritorno anche sulla legislazione recente, cioè si combattono nuove guerre avendo le mappe della prima guerra mondiale, pensando di essere ancora in trincea. No, è bello perché ci dice Veronica, è risaputo che c'è un oligopolio collusivo nei rifiuti. Io non lo sapevo, voglio dire, nel senso che... Posso citare anche le fonti del 95. No, ma è chiaro, ma voglio dire... Un questo gruppo di economisti della Bocconi, questo per forse esempio, è l'aspetto cioè... più inquietante, lei lo dice, che si è risaputo, libro. Che lui ci dice, è risaputo, l'ho detto nel libro e stiamo ancora al punto di prima. No, perché ci ha lavorato per 20 anni, per 30 anni. Ma perché si depista e dirotta il problema, che è strutturale, no? È sempre quello il problema. Sentiamo, no? Giuseppe, cioè, da Firenze, che ci chiama. È culturale in cui c'è uno spaesamento. Sì, aspetti Piero Bon, c'è un ascoltatore. Giuseppe, buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, allora, io riguardo al discorso della corruzione, mi sono sempre chiesto come mai in Italia non venga applicata una legge che invece in America viene applicata, ossia cercare, cioè indurre il funzionario pubblico a commettere il reato. Nel senso, il poliziotto, se si presenta in diciamo in travestito, diciamo, da corruttore con una mazzetta in mano da un dirigente pubblico, se il dirigente accetta di essere corrotto, non chiaramente resta. Non lo possono arrestare. È un tema questo... molto molto interessante, dibattuto. No, è anche molto discusso. È molto discusso, infatti, del Monte. C'è chi si oppone con i capelli dritti. Che ne pensa cosa? Del Monte, di questa l'agente provocatore? L'agente provocatore è una sì, delle grandi battaglie di Davigo soprattutto, sì, che continua. Ma sicuramente funzionale, bisogna dire che prima si parlava di cultura, no? L'agente provocatore può funzionare però in una società pronta, nel senso che non so quanto in Italia questo tipo di figura possa effettivamente funzionare oggi. Secondo me ci sono strumenti meno invasivi ma più, come dire, più efficaci per noi. Penso ad esempio, perché avere l'agente provocatore quando il semplice dipendente che segnala un caso di corruzione non è tutelato? Esatto, infatti su questo quello che si chiama whistleblower, sì, no? Esatto, è una delle zone su cui invece manca la tutela, è una delle zone meno normate. Noi credo, caso, Veronica, che ce ne occuperemo. Per nulla normate, certo. Vabbè, insomma, qualcosa fino c'è. Ad oggi, fino ad oggi, sì. Oggi, esatto, però non sono tutelati. Perché in Senato stanno proprio oggi discuteranno la legge sulle tutele del whistleblowing, quindi lo so, ma tutti sono interessati alla legge elettorale, No, tra l'altro, Veronica, di questo, di cui whistleblowing, non anticipiamo molto, ma nei prossimi giorni forse parleremo con una storia concreta che stiamo cercando, perché effettivamente già sono visti male, no? Il dipendente pubblico, non pubblico, anche privato, che denuncia dall'interno un episodio di corruzione. Spesso vengono abbandonati, perché potrebbe essere uno degli anticorpi fondamentali da sviluppare, no? Ma lo sai com'è in Italia? Cioè, come vieni visto? Come il traditore, il rompicoglioni, quello è arrivato. Certo, fatti gli affari tutti tuoi. Bene, poi arrivi tu, perché devi andare a mettere bocca. Il sistema funziona così. Per esempio, Piero Bon, lei quanto si è sentito così? Cioè, si è sentito whistleblower? Oppure quello che rompeva le uova nel paniere? Ma guarda, ancora adesso mi porto un po' l'alea della rompiscatole, oppure recentemente su una candidatura mi hanno detto: ma sembra un piantagrane, cioè sono un piantagrane, io faccio il mio lavoro, lo faccio bene. Infatti dico sempre una battuta, non so, ai politici: io vi faccio il tassista, vi porto nella località, vi faccio risparmiare carburanti, vi porto comodamente, ma se volete che io passi con rosso al semaforo, ve le guidate voi l'auto. Cioè, non tiro diritto all'incrocio, ecco, questo è il punto, no? Cioè, rispetta le regole, si può anche lavorare bene e rispettare le regole. Cioè, cerco anche di fare l'interesse, cioè di far risparmiare, di portare un valore aggiunto, non solo guardare la punta, ma perché... rispettando i semafori. Ma qual è stato il punto in cui è esploso lei, Piero Bon? Cioè, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per cui da che era un normale lavoratore, imprenditore, ha deciso di denunciare tutto quanto? Ma guardi, allora, a parte uno deve denunciare perché è il suo lavoro, cioè il suo dovere, e la gente non lo fa per omissione, per tante cose, perché giustamente, come osservava lei, poi diventa isolato in questo, certo, in questa dittatura dell'ambiente circostante in cui ti fanno morire spiritualmente, socialmente, perché poi la prima tattica è quella di emarginarti socialmente, discreditarti, ecco. Ma il punto è stato, secondo me, perché non avevo certa intenzione di scrivere il libro né di parlare delle mie storie, ma volevo fare solo un manuale tecnico, professionale, come è mia abitudine, invece mi hanno portato a ragionare su questo e abbiamo tolto tanto. Quando parlavate prima dell'agente provocatore, sì, cioè io sono stato in polizia nell'81 per 5 anni ed ero su strada, ero polizia strada. Allora, vi posso dire che c'erano delle pattuglie che ci venivano, io avevo 19-20 anni, quindi ero un ragazzino, insomma, ingenuo. Ci mandavano delle pattuglie, degli autisti che non erano altro, sì, che dei provocatori che cercavano di darci la tangente su strada per incastrarci. Cioè c'erano già, quindi esisteva però all'interno della polizia. No, tra l'altro, sì, io per concludere volevo dire che quel famoso magistrato intercettato che disse ma Piero Bono è l'unico coglione che non ha preso mazzette, poi è vero che propose lei nella commissione appunto di gestione rifiuti in Campania, perché disse effettivamente uno così non si farà corrompere, quindi mettiamo lui. Sì, è vero, non solo lui, poi ragionarono in un gruppo in cui c'era anche un generale, ecco. Quindi sì, è così, stato fortunato, mettiamola così, è stato fortunato. Un altro vulnus che non si può non segnalare è l'aspetto lobbistico, anche sulle lobby credo che ci sia ancora un problema di gestione e anche un po' di deregulation, perché quella è una, vero? Assolutamente, anzi andrebbero proprio regolamentate, perché io non le vedo, cioè ci sono anche lobby positive, perché poi certo, la parola anzi. Lobby viene usata in maniera impropria, secondo me. Basta esiste poi una mistificazione del concetto di lobby proprio perché non è regolato, e quindi non regolamentandolo non si capisce più esatto. Che cosa. Se fossero regolate sarebbe tutto esatto. Perfetto. Comunque noi vi dobbiamo salutare, ripeto, ho visto cose, se volete Ponte alle Grazie, Alberto Pierobon, tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da lì dentro, insomma, da un manager pubblico, e grazie anche a Davide Del Monte, ovviamente, Transparency International. Veronica, tra poco avremo il mio sindaco, devo dire. Io sono a Milano ormai, ma sono nato e cresciuto a Sesto San Giovanni, perché lì non vogliono più la moschea. E quindi hanno detto non la facciamo. È il tuo sindaco, nel senso che è lì lui sempre città. Dalla Seconda Guerra Mondiale? No, il sindaco anzi, da allora. Per la prima volta il sindaco di centrodestra, dopo che l'ex Stalingrado d'Italia è stata governata dalla sinistra da sempre. Quante ne ha viste? Ti interessa, tra poco. No. Pisapia. Sono Nicoletta Carbone e ho una proposta da farvi. Venite con me a caccia di bufale? Allora dai, segnate in agenda La Bufala in Tavola, Radio 24, ore 12, ogni domenica con Nicoletta. Perché se è vero che siamo quello che mangiamo, non vogliamo mangiare bugie, fake news, leggende o mode, ma solo quello che ci piace, è buono e ci fa stare bene. Allora io vi aspetto, mi raccomando, a mezzogiorno, alla domenica su Radio 24. I funamboli. Allora, cara Veronica, colpo di scena! Il sindaco di Sesto arriva più tardi, forse, non lo so, non lo sappiamo. Più tardi. È impegnato con le faccende della moschea? Non lo so. Vedremo più avanti. Alle 9:38 minuti. Intanto c'è un ascoltatore che ci chiama all'800 24 00 24, Valerio da Udine. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ma io volevo dirvi che negli enti pubblici, da quando sono state fatte normative che prevedono lo spoil system, e quindi i contratti privati dei dirigenti, ogni assessore che arriva si porta dietro il suo dirigente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quello sarà in eterno riconoscente nei confronti di chi l'ha messo nel posto di dirigente, e non potrà dirgli di no quando gli chiederà di fare le porcherie. Questo è il dato. Che bello spaccato, no? Continuiamo. Un sistema ben organizzato, in effetti. Non ci sono più i dirigenti che venivano assunti con concorso e che gli assessori dicevano: caro assessore, tu fai il tuo mestiere che io faccio il mio. Perché? Perché questi erano certi che non li avrebbero cacciati. Sì. Poi nessuno escludeva che anche allora ci fosse qualche dirigente che faceva il furbo. Vabbè, lei dice adesso è peggiorata molto la situazione. Con queste norme il politico si porta dietro il personaggio riconoscente, che se non è un yes man non diventa mai dirigente, e quindi siamo in questa situazione. Caro Valerio, devo dire, cara Veronica, anche un ascoltatore scrive: Claudio, in Italia la gente provocatore si ruba la mazzetta. Adesso, al di là delle battute, non vogliamo dare uno spaccato in cui ci sono tanti anche. Però torniamo onesti, al discorso di prima. No, ma questo non è la generalizzazione, però è il problema legato alla società civile che dicevamo prima. Cioè il fatto che comunque ci sia una tendenza, quando non ad essere conniventi in maniera attiva, a subire in maniera passiva, dando per assodato che questo sia lo stato di cose e vada preso come tale. Sì. Ed è molto complicato creare una reazione per cui non ci sia un whistleblower, ma diventino tanti a dire no, però così un non episodio può che Piero Bomma ha raccontato è che una volta era in un ospedale, così assiste a un malato, entra una persona, si parlava nella TV di un episodio di corruzione, e la persona che è entrata ha detto: ecco, vedi, 10.000 euro di mazzetta, ma se le offrissero anche a me, anch'io accetterei, sarebbe 10.000 euro, mi fanno comodo. Cioè c'è proprio l'accettazione della normalità di una situazione del genere. Ma anche perché chi si convince, cioè le persone pensano di essere una mosca bianca nel momento in cui si oppongono a quello che è lo stato di cose, e allora diventa: sono un eroe, cioè sono in grado di oppormi ad uno stato che è fatto così, quindi così. È molto complicato. Però, cara Veronica, alle 9:41 minuti abbiamo chiamato un imprenditore, si chiama Samuel Gugliotto. Buongiorno Gugliotto, è il nostro prossimo funambolo. Perché lei lavora nelle onoranze funebri e sì, c'è sempre lavoro, e questo si sa nel vostro settore. Però voi avete fatto un'iniziativa singolare, che è questa: se votate al referendum, cari cittadini, al 22 ottobre, il referendum del Veneto, avrete uno sconto del 10%. Su cosa potete immaginarlo? Quindi in realtà c'è un po' una contraddizione, perché anche dovessero beneficiare di maggiori autonomie, poi non potrebbero godersi fino in prima fondo, però hanno votato, prima hanno votato Guyotto. Ma che le è venuto in mente? Mi scusi, che... Allora, buongiorno a tutti intanto. Niente, questa è una, come dire, un'iniziativa che è nata da una chiacchierata tra me e un mio carissimo amico che è Roberto Girmo, che ha un'agenzia di viaggi a Marconi, in provincia di Venezia. Ah, che è un indipendentista, perché anche lei lo è, immagino. Beh, siamo federati con Grande Nord. In questo momento, oggi, stiamo parlando di autonomia, è quello che ci interessa maggiormente. Poi sì, le altre cose le lasciamo un po' da una parte. Il primo passo. Ci chiedevamo come poter stimolare l'interesse verso la consultazione. Cioè, come attirare gli elettori? Cioè, come attirare lei gli dice elettori? Proprio per dare un vero incentivo vitale ad andare a votare al referendum, lei promette il 10% di sconto qualora passassero a miglior vita. No, capisce che il suo collega, imprenditore, ha detto che è un'agenzia di viaggi, un 10% di sconto, uno lì lo accetta anche volentieri. No, tra l'altro voi chiudete il volantino con scritto in ogni caso buon viaggio, straordinario. Sì. Sì, sì. Ma anche i parenti del Decuius accettano volentieri il 10% di sconto, sa? Questo è vero, questo è vero, certo, questo è vero. Certo. Diciamo che è l'acquisto più importante che tutti facciamo, e lo sceglie qualcun altro al posto nostro. Quindi lei dice comunque 10% di sconto fanno comodo. Io questo faccio nella vita, e quindi posso offrire il 10% di sconto sul funerale se uno va a votare. Dice, tanto prima o poi quell'evento è un evento che dovrai fare, quindi per te o per gli altri, quindi è sicuramente un investimento, esatto, dice. In queste occasioni mi piacerebbe fare il pasticcere, così facevo lo sconto sulle torte. Ma lì era più semplice, no? Era un bel 10% esatto, di sconto sulle pastarelle della domenica veniva. Vabbè, più semplice. Ci dice in Veneto come attendete questa consultazione? Con trepidazione, perché è dal 2014 che seguiamo l'impianto del referendum, e siamo felici che giungiamo al dunque il 22 ottobre dalle 7 alle 23, sì, dando la possibilità appunto ai cittadini di esprimersi, di votare. Poi mi faccia capire, uno vota, tiene un tagliando del voto, e dovesse capitare una disgrazia, viene da lei e dice: ecco qua, io ho votato. Sì. Ma diciamo, basta aver votato, quindi non importa come si vota. Vabbè, ma chi va a votare vota. Non importa, ecco sì, no. Volevo precisare questo fatto, sì, non importa come si vota, l'importante è che si rechino alle urne, perché sì, nel Veneto, a differenza della Lombardia, serve il quorum. Dobbiamo raggiungere un quorum. Certo. Mm. Dobbiamo fare, sì, 50 più 1 degli aventi, sì, diritti, sì, al voto. Beh, diciamo sono che 2 milioni e qualcosa di elettori più 1. Sì, è molto quindi presumibile, Guyotto, che chi vada a votare voterà sì, proprio per questo proprio principio. Per questo a lui preme raggiungere il quorum. Beh, io lo spero, perché ci conto molto, però gli sconti li faccio anche qui, no? L'importante è che ci vada. Certo, certo. Diciamo che vada a votare. Che con il referendum, volevo dire, daremo maggiore autonomia, richiederemo maggiore autonomia alla nostra regione. I cittadini daranno mandato, sì, alla regione di aprire una trattativa con lo Stato centrale, sì, sì, per ottenere la gestione di alcune materie. Vabbè, ma non faccia zaia, Guyotto, non faccia zaia, noi l'abbiamo chiamata senso... è giusto anche comprendere qual è il motivo del referendum. Ma noi invece l'abbiamo chiamata per comprendere come si può arrivare a dare il 10%. No, perché di quello ne parlavamo in questi giorni, però avevamo notato questa offerta che lei faceva e ci aveva colpito già l'altra volta. Esatto. Comunque, Guyotto, ci faccia sapere se qualcuno si presenta da lei in forma privata, ovviamente non diremo i nomi, no, e il 10% di sconto per i funerali se votate al referendum del Veneto. Cara, auguriamo a tutti di presentarsi il più tardi possibile a riscuotere. Sì. Vale per sempre, uno tenete il tagliando, intanto andiamo al traffico. I funamboli. Eccoci qui, 9:48 minuti, c'è chi fa anche dello spirito, ma se uno muore come fa a averlo sconto? Cioè, insomma, in genere sono i parenti che organizzano. Ma questo infatti ce lo siamo chiesti all'inizio, poi lui ti ha risposto, i parenti, quindi lo sconto. Ovvio. Ma bisogna capire se ha votato il defunto, poi il parente comunque può godere dello sconto. Credo di sì. Cioè, sì, se uno si presenta col tagliando, guarda, il mio parente ha votato, non so, Leonardo Manera. Adoro la serietà con cui mi stai rispondendo. Esatto. Decuius, l'espressione completa è decuius ereditate agi. Tour della cui eredità si tratta, quindi i soldi c'entrano anche nella morte, ecco, diciamo. È arrivata la cultura. È vero che tu ironizzi, non lo sapevo. De cuius ereditate agitur, guarda come ironizza in modo fastidioso qui Alessandro Milan, una persona spiacevole veramente. Lo sento. Si sa, questo è risaputo in tutto il mondo. Ma anche mi dicono che a Cavaillon Veronese non si sente la radio, non capisci Milan? Ah. Sono disperati gli ascoltatori, ci scrivono da Cavaillon Veronese, da Verona, ci sono dei problemi, adesso sistemiamo tutto. È una radio comunista che non si fa sentire in Veneto, capisci Milan? No, vabbè. Proprio adesso che si parlava di una tematica sensibile alla regione. Niente. È il boicottaggio, questo è chiaro. Oggi mi sento un po' nostalgico oggi, Alessandro, perché ieri sul giornale c'era questo articolo: l'Italia in crisi fa retromarcia, è tornato il vuoto a rendere, da 5 a 30 centesimi per ogni bottiglia di vetro o di plastica restituita. È vero. E questa decisione, cara Veronica, secondo me non è solo il segno della crisi o anche del desiderio di riciclare. In me, per esempio, ha smosso tanti ricordi, come quando mia madre da bambino mi mandava in negozio a rendere le bottiglie di vetro in cambio di poche monetine. Con quelle monetine prendevo un gelato da 50 lire, che era una pallina. L'Italia era tutta diversa negli anni 70. Quando andavo a fare la spesa, i sacchetti di plastica erano di una plastica forte, spessa, caparbia, indistruttibile, impossibile da smaltire nell'ambiente. Se facevi a pezzi quei sacchetti, li bruciavi, dopo pochi minuti li trovavi ancora intatti come l'araba fenice. Duravano per sempre, dispiaceva buttarli via, erano come uno di famiglia. I sacchetti di plastica che ti danno adesso saranno anche biologici, ma hanno una durata di 50 metri. Sopra i 50 metri si sfondano, si bucano, si sfiancano. In più, quando la cassiera te li dà, sono impossibili da aprire, si crea fila, tensione alla cassa, qualcuno litiga, ci si picchia. Qualcuno aveva il telefono in casa negli anni 70, noi no all'inizio. Poi abbiamo messo il duplex, cioè praticamente un telefono in società con un'altra famiglia dove la bolletta veniva divisa a metà. Però dovevi essere onesto e non stare troppo al telefono, altrimenti l'altro trovava sempre occupato. C'era il terrore di fare le interurbane che costavano troppo. Se per caso facevi un'interurbana a un amico che avevi conosciuto d'estate, vedevi tua madre che cominciava a camminare nervosamente avanti e indietro fino a quando arrivava la minaccia. Chiudi la telefonata, altrimenti stasera lo dico a papà. Al posto dell'acqua frizzante si usava l'idrolitina, una specie di polverina che si metteva nell'acqua del rubinetto per renderla frizzante. Orrenda. E che causava mitologici gonfiori intestinali. Come automobile mio padre aveva una Fiat 1100 azzurra prima di prendere una Fiat 127 rustica, col volante in finto cuoio, i sedili in finta pelle, il motore in finto motore. La prima volta che sono andato a prendere una ragazza con quella macchina mi ha detto: non entro, mi metto sopra il bagagliaio. Ogni tanto di domenica mattina suonava la banda del paese e io restavo lì incantato a guardarla, affascinato dalle divise dei suonatori della banda. Certo, erano anni difficili gli anni 70, sono anche stati quelli del terrorismo, però in generale nelle famiglie mi pare che ci fosse meno rabbia, meno astio, sicuramente più solidarietà. Andrò volentieri a rendere alcune di quelle bottiglie ripensando con un filo di nostalgia a quegli anni e all'idrolitina. Il nostro Leonardo Manera. Momento nostalgico. Gli anni del terrorismo di Cesare Battisti. Di Cesare Battisti. Che ce lo ridanno forse, ridatecelo. Vogliamo solo fare potremmo giustizia. Brindare con l'idrolitina se ce lo no, ridanno. No, uno spumantone di quelli di gran classe o non uno ci champagne. Ridire come però, non ci ridire che cosa fai come, no. Per favore. Però no. Mi sembra che effettivamente in quegli anni ci fosse una rabbia meno diffusa nelle persone. Io quel ricordo, forse sbaglio o no? Io ero piccolino, quindi non ricordo. Tu sei vecchio, puoi dircelo. Io giocavo le biglie. Ero molto molto lontana dal nascere. Esatto, Veronica. Ma molto lontana dal nascere. Ricorda. Io sono del 67, quindi ho vissuto i miei primi anni di vita. Mi ricordo solo 3 anni di differenza. Sì, mi ricordo durante la crisi petrolifera del 73 mio padre mi insegnò ad andare in bicicletta per strada proprio perché non c'erano le macchine, quindi liberamente si poteva andare a imparare. Ma la mamma ti mandava a prendere il latte, Leo, o siamo già, no? Sì, mi mandava da solo a sei anni, certo, a prendere il latte, a prendere il prosciutto. Insomma, si andava molto più liberamente per strada. Dal salumiere Spinelli. Non è come l'argomento di ieri, per cui fino a 14 anni ti accompagnavano a prendere il latte. Era straordinario. Se andava in giro, io per esempio dal salumiere Spinelli prendevo le caramelle e mia mamma, terrorizzata, ha detto basta, gli vengono tutte le carie, e andava a dire al salumiere Spinelli non gliele dia più. Allora io sono andato dal salumiere Spinelli, gli ho detto voglio una caramella, salumiere. No, tua mamma ha detto di no. E vabbè, prestamela. E poi te la restituisco. Quindi quando si dice no, che le cose si iniziano a vedere sin da bambini è precoce. Era un furbino. Andrei defurbizzato. Tra l'altro invece il negozio, il fruttivendolo dove abitavo io si chiamava Bregoli. Mia madre mi diceva sempre vai da Bregoli a prendere insalati, pomodori. Io per anni ho pensato che Bregoli fosse il sinonimo di fruttivendolo. La prima volta che sono andato da un altro che non si chiamava Bregoli non sapevo cosa fosse. Comunque ci scrivono che nostalgia manera, ma anche Leonardo, hai la voce di Accorsi, questo Gabriele da Bologna. Attenzione perché dopo Michele da Firenze c'è Gabriele da Bologna. Ma comincia. Allora, hai la voce di Accorsi, wow, interessante. Però dopo ho aggiunto la voce di Accorsi non mi piace. Allora. No, c'è Lorenzo da Brescia. Lorenzo, buongiorno, che ci dice? Buongiorno e saluto anche a mio coetaneo. Il vecchione Manera, sì. Il vecchione Manera, il forte Manera. Volevo parlare sulla storia lì di Battisti, no? Sì. Per me sì. Lei ha detto prima lei è felice eccetera, io invece non sono tanto felice, ma non per il fatto perché sono con Battisti, perché secondo me sarà un'altra botta a quelle povere famiglie che hanno avuto i problemi appunto di lo vogliono in carcere, a scontare la pena. In carcere. Io adesso ritorno su un'altra cosa che avete detto voi, quello di quel nigeriano, adesso non so se è nigeriano che ha ucciso e uno e l'altro là che fanno il processo che gli hanno dato l'ergastolo, e c'era, ha detto che se esce, ha capito, con l'ergastolo, se gli daranno sicuramente il deve tornare al suo paese, insomma, in poche parole. Sì. Cioè, ma adesso se io ho l'ergastolo perché devo uscire? E io qua ritorno su Battisti con tutto quello che è successo, anni che sono passati, ma pensi davvero che faccia? Io non ci credo più. Scusi, cos'è? Lo chiamiamo in Italia per lasciarlo libero, allora lo lasciamo in Brasile. Se viene in Italia va in carcere. Ma soprattutto in Brasile non è che abbia proprio sofferto incredibilmente Battisti, C'ha quattro ergastoli, semplicemente venga qui e sconti la pena. Nessuna vendetta, ma giustizia. Dai, dobbiamo andare alla seconda parte di Funamboli, dopo il giornale radio. State con noi, fino alle 11. Vai a prendere il sindaco di Sesto. Vallo a prendere a braccio. Vado a prendere. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. Seconda ora dei Funamboli e ce ne sono ancora tanti in arrivo. Veronica Gentili, Leonardo Manera. Tra l'altro, Veronica, ci scrive un ascoltatore. Sapete che in veneziano, ci scrive Sergio, Manera è l'accetta. Quando tutto va a rotoli c'è un'espressione che è questa. Che in veneziano che è ti che butta il manico drio a Manera. Traduzione di Veronica Gentili. Sì? Va tutto a rotoli, così, va tutto a rotoli. Ripeto così, ma qual è la traduzione letterale invece, Leonardo? Hai buttato il manico dell'accetta dietro all'ascia, cioè le cose si sono invertite, no? Dato tutto a rotoli. E da qui nasce il nome d'arte Manera, vero? Sì, è da questo, credo. Da qui viene. Da dove nasce il nome d'arte Manera? Ma non ricordo più, ma secondo me, se non ricordo male, dal disegnatore Milo Manara, che era protagonista dei miei sogni più importanti, diciamo così. Ecco. Chiamiamoli importanti. Quelli che ti hanno svezzato. Un eufemismo validissimo, importante. Perché ricordiamo il signor Leonardo Bonetti. In arte Manera. Bonetti come quello che cantava Dalla, no? Sì, a Berlino sono stato con Bonetti. Sì. Allora c'è Nicola da Belluno. Buongiorno Nicola. Basta. Scusate, mi sono fermato, ho tolto l'auricolare. Bene, bravo. Allora, per paradosso, visto che ho una piccola ditta che fa servizi per bambini, offro sconto del 10% a chi non va a votare domenica. questa è un'idea che le è venuta oggi, Nicola, appena ha sentito... No, ci avevo in testa da qualche giorno di prendere una posizione su questo referendum. Su quel quesito è quasi impossibile dire di no. Però attenzione, no? Quindi... Nicola, perché lì ci si presta a un rischio. Perché uno va a votare e prende 10% di sconto al funerale. Poi va da lei e viene da lei e dice io non ho votato. Prende il 10%. Va a votare. Io, quando mi porta il certificato uno vede se c'è il timbro o non c'è il timbro. Vedi scienziato di un Milan che non sei altro, c'è il modo. Giusto. Cioè lei Nicola da Belluno offre 10% di sconto negozio per bambini. Però Nicola secondo me dovremmo passare al 15. Quindi babysitteraggio, asilo nido, quindi offro una cosa più corposa che su un... No, oltretutto proprio agli antipodi rispetto all'altra offerta. Qui siamo con i bambini, la nascita, la vita e dall'altro lato invece la fine della vita e il tramonto. È concorrenza sleale, concorrenza sleale perché... No. Beh, qui la questione è un po' più grossa perché vivendo in una... Il problema è che non mi fido di chi gestirà il risultato politico di questo... Sì, vabbè, ma qui andiamo a considerazioni politiche. Attenzione perché Paolo rilancia 15% a chi va a votare. Signori, l'asta l'ho detto, è aperta. Questa è un'asta, eh. Ognuno deve capire che servizio offre in base a questo. Abbiamo capito come condizionare il voto del referendum. Esatto. Comunque, sempre tornando, capito, alla corruzione, in Italia è semplicissimo. Nicola, la ringraziamo per questa sua proposta. Ma vuole dire c'è un sito internet, c'è qualcosa per... Nicola. Sì, c'è un sito sul quale ho postato oggi questa cosa. Ce lo dica però, perché sennò ce lo dica. Si chiama www.peterpanbl.it. Peterpanbl come Belluno, sì. Immagino. No, come Belluno, esatto, targa di Belluno. Peterpanbl.it. Ma Nicola, vale anche per me che sono nel Lazio? Ma se viene in residenza, se ci danno l'autonomia a Belluno e viene a residere a Belluno, volentieri. Ah, vabbè, già ci sono le condizioni. Perché sono due referendum qui, sì, a Belluno. Sì, chiaro. Ce ne siamo occupati. Sì, perché a Belluno c'è anche l'autonomia, sì, sono due referendum. Il che vuol dire, Nicola, che non ci ha ascoltato anche nei giorni scorsi, esatto. Quindi Comunque, alle 10:11 minuti c'è il momento del funambolo del giorno. Nome: Vincenzo. Cognome: Maisto. Età: 32 anni. Blogger e scrittore. Il suo sito Il Signor Distruggere da anni si infiltra nei più assurdi gruppi chiusi dei social network, riportando conversazioni tra il macabro e il surreale. La sua pagina Facebook oggi conta più di 530.000 followers. Il Signor Distruggere, Vincenzo Maisto, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno. È colui che scova delle assurdità che ci sono sulla rete. Io una subito voglio: le mamme pancine. Che cosa sono e chi sono? Maestro. No, ma soprattutto cosa fanno? Cosa fanno le mamme pancine? Le mamme pancine, però c'è da dire che sono loro stesse ad autodefinirsi così, Non è una mia licenza poetica. Che fanno? Beh no, anche non sarebbe stata offensiva, anzi mi sembra che rispetto a quello che fanno mamme pancine sia un appellativo così grazioso. In realtà è più come nome che si autodanno, è pancine d'amore. Più che mamma pancina, perché mamma è una sorta di condizione loro esistenziale, che una volta che diventi ovviamente madre lo sarai per sempre, tant'è che un loro tormentone nei post che si condividono è una mamma lo sa. Ma ancora non ho capito chi sono e cosa fanno queste mamme pancine d'amore. Allora, le mamme pancine sono delle signore che hanno scoperto i social network da qualche anno e hanno creato una sorta di enorme comunità tra pagine pubbliche che hanno migliaia, molti più follower di quanti ne abbia io, di quanti ne abbia la Ferragni, se si sommano tutte insieme, e gruppi aperti, chiusi e segreti dove ci si scambia consigli, ricette e vicissitudini giornaliere. Come spiegarsi come consumare la propria placenta? Sì, questa è una usanza che abbiamo preso dall'America. Abbiamo importata. Quindi, in pratica, visto che si è creato questo fenomeno del partorire in casa, o comunque c'è sempre stato, però in questi anni è andato un attimino crescendo perché si ritenga che faccia meglio alla psicologia dell'infante nascere all'interno delle mura domestiche, quindi non in un ospedale dove magari c'è una rianimazione. Ci si mangia anche l'emergenza. La placenta. La placenta prima di tutto viene lasciata attaccata al bambino fino quasi alla setticemia e successivamente viene o resa in compresse, in polvere, per poi essere ingerite cioè sono cose tutte vere che esistono. Ma cosa c'è alla base di questa cosa? Cioè loro perché sostengono che la placenta vada mangiata? Perché ritengono, un po' come fanno i gatti che se la mangiano, ritengono che la placenta sia ricca di proprietà, di ferro, e quindi di lei cosa fa? Alimenti. Lei si infiltra all'interno di questo gruppo di mamma pancina? No, assolutamente, io non sto in nessun gruppo. Io tutto quello che pubblico, lo pubblico perché a me viene inviato. Ci sono i whistleblower, visto che abbiamo parlato, sì, cioè, gente che dall'interno... I whistleblower dei gruppi? Denunciano. No, che a un certo punto, pentiti di essere state mamme pancine, chiamano il signor distruggere. Tipo, c'è la mamma pancina che ha delle amiche. Tra queste amiche ci sono anche delle persone capaci di intendere volere. Stai dicendo normali, delle persone queste normali. Persone normali capaci vengono, di intendere volere, esatto, sì. Queste persone normali vengono invitate in questi gruppi, la mamma pancina pensa di fare cosa gradita, la persona normale se ne trova inorridita. Quindi, ma è vero che ci sono delle mamme che tengono dei bambolotti di plastica fingendo che siano i loro figli, li portano anche dal dottore... Tanto che ne parlai proprio su Radio 24, di questo anche due settimane fa. Sì, cioè, esisteva, ora non esiste più, un gruppo che si chiamava Il mio bimbo speciale, dove in pratica c'erano delle collezioniste di bambole reborn, che la bambola reborn è una bambola che costa anche 5.000 euro, quindi è molto verosimigliante, è fatta in maniera tale che possa sembrare un vero bambino ed è stata concepita in ambito artistico. Queste signore però la utilizzavano per far credere alle persone che non le conoscevano in maniera diretta di avere dei figli, cioè. E tramite le bambole riuscivano a ottenere determinate cose. Ah, quindi l'obiettivo cose. Era proprio bleffare, cioè fingere di essere mamme non essendolo? Era un gioco di ruolo, soltanto che andava un po' oltre il limite, perché quando il gioco di ruolo inizia a intaccare anche persone che non sanno che... di essere partecipi di questo gioco e quindi si va a manipolare le persone, comunque sì, c'è qualche problema di base. Quindi, di fondo. Lei mette un po' in evidenza queste storture, queste esagerazioni della rete, ecco, diciamo. Ma così. Sì, comunque il blog esiste da anni, abbiamo iniziato parlando di argomenti come il precariato, quindi tutti gli annunci di lavoro E poi si è arrivati. E poi, abbiamo parlato dei nazi vegani, abbiamo parlato dei complottari, abbiamo parlato di tanti medici che poi sono finiti anche nei servizi delle Iene, ovviamente senza essere mai citati, voglio precisare. Ma questi gruppi ti temono? Nel senso che arrivano abitualmente minacce, però dire... forse applicano la teoria bene o male purché se ne parli. Tra l'altro, devo dire, Maestra ha scritto anche un libro per la Ecos Edizioni, ricordiamo, Distruggere i sogni altrui esponendo la realtà oggettiva. Sì. Qual è in conclusione il gruppo più assurdo, quello proprio che l'ha più sconvolto? Allora, il più assurdo era uno di Mamme Vegane contro l'Invidia, che era il nome di un gruppo che esisteva l'anno scorso. Mamme Vegane contro l'Invidia, l'invidia di che? Questa è una domanda su cui ci siamo interrogati tutti per un bel po', perché pensano che chi non è vegano invidi in fondo i vegani. Esatto, questa è una loro concezione. In questo gruppo erano una sorta di esperienze talmente surreali e talmente incredibili che comunque veniva, cioè la comunità vegana veniva resa antipatica da questa, sì, dall'esistenza, sì, di questo gruppo, tant'è che oggi ci sono tantissimi vegani che mi seguono, che mi scrivono e che si dissociano totalmente, tipo che una signora portò il cane in un negozio, il cane non si sentì bene, senza scendere in dettagli, e la commessa pretese, tra virgolette, che a pulire fosse la padrona del cane. La signora si sconcertò per questa richiesta della commessa, ne parlò nel gruppo e le altre mamme, certo, non poterono far altro che dare manforte alla signora, che giustamente per loro non era lecito che fosse lei a pulire lo sporco del comunque suo cane. Comunque, noi il signor Distruggere lo trovate così su Facebook, ovviamente, ed è Vincenzo Maestro che salutiamo e ringraziamo. Ogni qualvolta vi imbattiate nelle realtà surreali nella rete, nelle cose più grandi di tutti noi, chiamate il signor Distruggere. Esatto, blogger di 32 anni. Andiamo al traffico, poi arriva il sindaco di Sesto San Giovanni tra poco. Ma nel frattempo l'hanno edificata la moschea. No, no, credo di no, tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta... I funamboli. She silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. Scusate, ma se un mio parente muore prima, lo posso tenere fuori fin quando c'è la data di votazione? Vabbè ragazzi, dai, non... Più che altro mi sembrava che avesse l'accento del sud, quindi c'è anche il problema del trasferimento. Nel frattempo bisogna prendere la residenza in Veneto, tenere il parente congelato e poi andare. Ma sì, si mette al congelatore, che problema c'è? Dai, dai, su. Allora, Mirko da Novara, che ci vuole dire Mirko? Buongiorno, all'800240024, ci vuole dire talmente tanto che è caduta la linea. Allora, lo recuperiamo tra un attimo. Intanto salutiamo il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. Sindaco, buongiorno. Sindaco per la prima volta di centrodestra dopo credo 45 anni, no? Di 72, ecco. Dal dopoguerra. Sì, dal dopoguerra, sì, ah. Esatto. Infatti, perché io ho detto 45, la guerra del 45. Stava la guerra. Esatto. Beh, è una bella responsabilità, primo sì. Sindaco di centrodestra, no? Assolutamente. Sindaco che dice la moschea doveva essere la più grande moschea. Una delle più grandi forse d'Italia, forse la più grande, cioè quella di Roma, sappiamo, di moschea, la seconda più grande dopo quella di Roma, non sa da fare e non si farà a Sesto San Giovanni. Perché, sindaco? Innanzitutto caricare su Sesto San Giovanni una presenza così eccessiva di fedeli musulmani provenienti da tutta la Lombardia sembra eccessiva. Loro attualmente hanno una struttura per la comunità locale, quella viene garantita, ma realizzarne una per 4.000 persone, considerate che quella attuale di 400 è provvisoria, ma è per 400 persone, porterebbe sicuramente problemi di ordine pubblico. Considerando pure che Milano non ha moschee, è un problema questo forse. Sindaco, però lei ha parlato di una serie di inadempimenti tecnici, cioè la giustificazione poi è stata questa, no? Allora, la prima era una questione politica, poi c'è una questione tecnica. Noi abbiamo sollevato tre grosse inadempienze. La prima di carattere economico, ovvero la comunità musulmana dal 2013 aveva in concessione un'area di 3.000 metri quadrati dove doveva realizzare questa grande moschea per 4.000 persone di 2.400 metri quadrati e la concessione che era stata fatta senza un regolare bando comunque prevedeva il pagamento dell'affitto dell'area e non è mai stato pagato nulla al comune e sono in arretrato di oltre 320.000 euro, quindi un'inadempienza dal punto di vista economico. Poi c'è un'inadempienza ancora più grave dal punto di vista ambientale, in quanto le bonifiche, la certificazione delle bonifiche non era stata ancora presentata. Però queste sono questioni tecniche. No, sindaco, infatti chi l'accusa che lei ha utilizzato decadenza. Questi espedienti tecnici, in realtà perché dietro c'è una motivazione politica. Cioè lei non politica. La vuole di base. No, sono entrambe le questioni, perché poi la più grave è quella urbanistica, l'inadempienza urbanistica, nel senso che allo stato attuale per consentire la realizzazione della moschea bisogna rispettare l'unica legge che è la legge regionale che prevede che il piano di governo del territorio abbia all'interno un azzonamento per individuare i luoghi di culto. Sì, però mi scusi sindaco, ribaltiamo la questione. Sì. Mettiamo che fosse tutto a norma, lei la vorrebbe la moschea a Sesto San Giovanni? Ma la moschea c'è attualmente. No, ma una moschea, questa moschea. Di quelle dimensioni no. L'abbiamo chiaramente detto, in quanto se è per garantire la libertà di culto alla comunità locale, allora viene garantita. Ma se deve essere un punto di riferimento per la comunità di tutta la Lombardia... Una moschea è una moschea, poi ci va chi vuole pregare Allah, un conto è la comunità locale, un conto è tutte le realtà della Lombardia che la frequentano. Lei ritiene che ci sarebbe un afflusso troppo elevato di musulmani sostanzialmente? Anche perché non ci sono moschee... Considerate un un elemento. Noi siamo un comune di 80.000 abitanti, abbiamo 70 agenti di polizia locale per gestire gli eventi o le varie situazioni. E Milano ad esempio ha 3.000 agenti di polizia locale, e loro non la realizzano, ma anzi fanno venire a sesto i fedeli musulmani per pregare. Qualsiasi problema dovesse succedere di ordine pubblico, io poi ne sono responsabile. Sì, lei dice non se la sente, non se la sentirebbe mai di gestire. Ma non abbiamo neanche non abbiamo le risorse, gli spazi, le capacità per ospitare. Però sindaco, la comunità islamica dice di aver preso impegni con la precedente amministrazione prima che lei venisse eletto, e che ormai le pratiche sono avviate, che loro hanno già speso dei soldi in questa attività, quindi c'è un problema anche di lavori in corso. Ma la comunità islamica aveva preso accordi con la precedente amministrazione su un progetto che era più che altro ideologico, nel senso che si voleva avere a Sesto San Giovanni questa grande struttura, togliendo diciamo a Milano il problema della realizzazione di una grande moschea. Io ribalto la situazione. Secondo me è Milano che può ospitarla, non un paese della periferia di Milano, che un po' scaricare alla periferia, si parla tanto di area metropolitana, quando poi le cose buone se le tiene Milano e le criticità vengono scaricate ai comuni limitrofi che magari non hanno neanche il potenziale o le risorse per poterle gestire. No, ma questa è un'obiezione che può avere un senso, ma mi chiedo se non è troppo tardi rispetto all'iter che il processo ha già preso, al corso in cui siamo già per fare questa obiezione. Non è tardi perché noi abbiamo intrapreso un percorso di legalità, ovvero abbiamo deliberato la decadenza del progetto, dopodiché è passato un ordine del giorno del polo civico che impegna l'amministrazione ad azzonare e rispettare la legge regionale entro i 24 mesi. Pertanto noi procederemo nel rispetto della legalità. Se la precedente amministrazione aveva adeguato la normativa per un obiettivo politico, noi questo non lo facciamo. Sì, il problema è che, ma al di là di Sesto San Giovanni, che è il vulnus un po' in tutto il paese, cioè quando si parla di moschea la gente non la vuole, c'è molte reticenze. Ma noi ce l'abbiamo, da noi c'è. Ma lei l'ha messo come punto del programma proprio elettorale, cioè la moschea non si farà. La grande moschea, noi garantiamo la libertà di culto alla comunità locale, ma la grande... Ma che fa? Chiede il certificato di lei viene da Milano? No, allora lei viene da Como? No, allora no. Cioè se è una moschea è un luogo, se uno la fa è un luogo per pregare aperto, potrei andare anch'io. Infatti lui non vuole farla. Lui non vuole farla, infatti. Non è che non la voglio fare, se verrà realizzata per i locali, per i musulmani locali. Sarà con una capienza di 400-500. Lui dice che ci sarebbero troppe persone, troppi musulmani che arrivano. Però, non posso creare. Ma perché ce ne sono tanti? Perché se ci fosse una moschea a Como, una moschea a Pavia, una moschea a Milano, una moschea. Non posso creare una Mecca a Sesto San Giovanni. Ecco, problema questo è quello. Io posso creare una struttura per la comunità locale. Se prima la precedente amministrazione aveva il progetto di realizzare la Mecca, oggettivamente non fa parte dei miei obiettivi. Ma perché era stata individuata Sesto San Giovanni? Guarda caso, era stata individuata Sesto San Giovanni e proprio davanti quella che era l'area dove sarebbe dovuta nascere la grande moschea, c'era il prolungamento con tanto di fermata del prolungamento della metropolitana, così nel giro di un quarto d'ora da via Padova, viale Jenner, viale Ponza, per ragioni meramente logistiche, in pratica. Ma sindaco, ma è ovvio che sarebbero arrivati da anche ma io non è che posso togliere le castagne dal fuoco a Sala, nel senso che lui Cioè dice Milano, fatti la moschea se vuoi. Se vuole la faccia lui, dato che l'ha inserita nel programma elettorale. Io nel programma ho scritto chiaramente che non volevo la grande moschea, ma garantivo la libertà di culto. Detto questo, la libertà di culto, ma dove? Però qui si crea un problema, perché poi attualmente Però sì. Sindaco, a Sesto San Giovanni c'è già una forte presenza di extracomunitari, di musulmani. Com'è la convivenza? Ci sono stati problemi in questi anni? No, assolutamente. La convivenza è pacifica. Il progetto, secondo me, deve essere un progetto di integrazione, non di convivenza. Quello che io obiettavo a questo progetto della Grande Moschea era che portava una ghettizzazione, in quanto realizzavano anche strutture a servizi tipo biblioteche, circolo culturale, ristorante e altro, che portava poi a isolarsi dal contesto cittadino. Io ritengo che a loro serva un luogo di culto, quello attualmente ce l'hanno e quello rimarrà, ma annettere servizi che serviranno soltanto a non integrarsi, ma a convivere e ghettizzarsi, non rientra tra le mie priorità. Ma lei non teme invece che si possa creare un'atmosfera sgradevole all'interno delle varie comunità con questa decisione? Cioè, lei parla di una convivenza tutto sommato comunque tranquilla, senza nessuna particolare criticità. Non teme che questa decisione invece possa creare una maggiore conflittualità tra popolazione? Io però sono stato eletto con un chiaro programma elettorale. Il mio non era ambiguo come programma elettorale, era molto chiaro. Quindi dice, questo è il mandato popolare, diciamo, che ha ricevuto. Proprio un 60% della popolazione, quando mi ha votato, mi ha detto: preferiamo il progetto di integrazione, non di convivenza e ghettizzazione. Quindi non è che una volta eletti uno prende e può fare quello che vuole. Ho un impegno elettorale e lo sto perseguendo. Va bene, insomma, questa è la posizione del sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. Per contemperare le esigenze farei mezza moschea e mezzo centro commerciale. Ecco, così. Ecco, ovviamente il nostro Leonardo Manera ha la soluzione urbanistica. Oppure un polo interreligioso in cui, come nei grandi supermercati, si fa uno e uno, no? Dai, le tre principali religioni andiamo monoteiste. A sentire la borsa e poi rientriamo con l'ultima parte di Funamboli. Tante altre novità, state con noi. I Funamboli. Alino, una domanda. Ma tu di fianco a casa tua la vorresti una moschea? Rispondi a sta domanda, ma di cosa stiamo parlando? Ah, guardi, non lo so, caro ascoltatore. Vabbè, forse peggio un garage sotterraneo dove vanno clandestinamente a pregare, non lo so. Perché non capisco, Veronica, moschea uguale che cosa? Pericolo? Ma in realtà lo scopo dovrebbe essere quello contrario, di evitare che vadano nel garage, verificarla, vedere che cosa succede, sì. Tenerla sott'occhio, e proprio così evitare che si creino gruppi clandestini, persone che uno non controlla. Il problema però è la quantità, sempre, che sulla quantità, sulla dimensione ti trovi anche probabilmente dei problemi. Quello sì, è chiaro che non la vorrei, cioè il venerdì sarebbe un problema, perché vanno a pregare magari in 3.000, è chiaro. Che, come dire, capisco anche le esigenze di tra virgolette ordine pubblico, non vuol dire che fanno niente di che, ma 3.000 persone concentrate in un posto. No, ma è chiaro, ed è chiaro anche il discorso del metterle in dei punti che sono chiaramente magari punti periferici, frazioni più piccole, che può essere una questione controversa. Per esempio, in questo caso Roma ce l'ha effettivamente all'interno della città, nel centro della città, ed essendo una città enorme c'è una gestione diversa, sì. Quindi quella può essere un'altra delle tematiche. Poi diventa un rimpallo di responsabilità, perché Sala la vuole e dice la facciamo a Sesto, il sindaco di Sesto non la vuole più, cambiano le amministrazioni, quindi queste poi sono anche gestioni molto ingarbugliate. Sì. C'è Mirko da Novara, buongiorno Mirko. Buongiorno, anzi vi ringrazio perché è il mio compleanno oggi, quindi mi fa piacere. Auguri Mirko. Radio, grazie mille. Infatti stavo aspettando una cliente e stavo sentendo la radio fino in macchina, quindi ho seguito più che altro la prima parte della... E che ci vuole dire? Perché, della discussione. Innanzitutto volevo ringraziare Leonardo Manera, che stimo come comico e come persona, perché lo seguo fin da quando sono piccolo. Ti ringrazio. Tutto il ricordo degli anni 70, perché diciamo che per noi giovani è molto importante sapere come siamo arrivati ad oggi, alla situazione di oggi, e ciò che possiamo prendere del passato che magari si è dimenticato per migliorare il nostro presente. Lo dico sia da giovane 27 anni, visto che ho già fatto 27 anni. Devi fare un programma su Rai Educational con questa premessa. ci proverò, diciamo che lo faccio come consigliere comunale, cerco di svolgere il mio ruolo in una maniera ottima. Quindi mi ha fatto proprio piacere questo ricordo, e può essere magari frutto di riflessione anche per quanto riguarda le tematiche all'interno del mio comune. L'altro discorso invece è molto rapido sul discorso dell'autonomia. Ho partecipato settimana scorsa a una conferenza proprio su questo, perché anche il Piemonte vorrebbe insomma indire il referendum come Lombardia e Veneto, appunto, ed è una tematica abbastanza difficile, perché diciamo che gli importi sono veramente alti. Per la Lombardia si parla di 57 miliardi, per il Veneto adesso non ricordo la cifra, sul Piemonte siamo sui 10 miliardi, insomma sono cifre veramente alte, e non so anche se in seguito a un risultato positivo come molti sperano, insomma, si possa riuscire a ottenere, diciamo. Vabbè, questo si vedrà, Mirko. La ringraziamo, è che siamo veramente di corsissima, perché è il momento di dare voce ai nostri lavoratori. Io non è che si devono offendere se dico un po' strani, bizzarri, insoliti, inconsueti, che ci scrivono a funamboli@radio24.it. Lavoratori! Vabbè. Questa è la sempre sigla. Per farci chiamare, sempre per creare un bel clima. Sempre. C'è Alessandra Faienza che ci ha scritto e lei fa la mascheraia. Buongiorno. Che vuol dire la mascheraia, Alessandra? Buongiorno. Buongiorno. Sono una creatrice di maschere per il teatro. Che bello. Che settore molto particolare. Mi immagino una nicchia, oppure c'è molto lavoro? È una nicchia nella nicchia. Ma tipo quella della commedia dell'arte? Anche è una parte del mio lavoro, ovviamente. Ma per fortuna il teatro di maschera, insomma, è piuttosto ampio. E poi non faccio solo maschere, faccio anche parrucche e costumi. Ma le maschere sono quelle per il viso unicamente, cioè per coprire il viso? Intende, non quelle di bellezza? No. Anche interessante, ma dico, non intende tutto dipende, il costume. Dipende dall'attore che le indossa, sicuramente alle volte c'è un miglioramento, comunque può anche essere una maschera di bellezza. Sì, esatto, è ciò che l'attore indossa per trasformare se stesso in scena, quindi per modificarsi e per soprattutto per amplificare il messaggio corporeo, quindi. Ma infatti noi abbiamo, ci ha mandato qualche esempio in foto, no? Non so, la maschera che trasforma il volto in un qualcosa di mostruoso, oppure che esalta alcuni tratti somatici del viso, no? E come si fanno? Con che materiale si fanno queste maschere? Le facciamo con un sacco di materiali, dal tradizionale cuoio, appunto, della commedia dell'arte, a lattice, stoffe, e poi a seconda del progetto possono sempre uscire idee nuove e materiali nuovi. Avete un laboratorio? Chiaro. Ho un laboratorio a Milano, sì. Fantastico. Sì. Ma quanto costa una maschera? Dai, diciamolo tutto. Quanto può costare una maschera? E quanto ci vuole per fare una maschera? Immagino dipende dalla complessità. Ma... Esattamente, sì. Può essere un lavoro piuttosto semplice come davvero molto complesso. A seconda proprio della richiesta e proprio del tipo di materiale, quindi può andare dalle 50 euro alle 600-700 euro. Io vorrei una maschera di maniera. Vorrei una maschera per i momenti intimi miei, per fare... Subito si sono sbizzarrite le fantasie. No, ma perché ci sono delle foto che ci ha mandato bellissime. Alessandra, vuoi dire un tuo sito, un tuo riferimento? Perché noi poi i lavoratori insoliti li vogliamo anche aiutare, magari ad ampliare il loro... La nicchia della nicchia, che certo. Si estende. Alessandra, Sì, allora, potete vedere tutto il mio lavoro sul mio sito, che è www.kiklosmasks.com. Ai, questo kick. Scrivete anche a noi, funamboli@radio24.it. Deve cambiare sito, perché non le scrive nessuno con questo nome troppo come complicato. Calcio, lo non spelling, so, K-Y-K-L-O-S, Masks. Kiklos Mask. Non scrive nessuno. Ci arriverà. Scrivete a noi. In realtà si va di passaparola, è tradizione orale. Esatto. No, scriveteci. Alla fine il nostro lavoro è sicuramente di passaparola. E comunque mi trovate anche come Alessandra Faienza. Quello è un po' più semplice. Alessandra Faienza, mascheraia di teatro, soprattutto. Grazie davvero, lavoratori. Scriveteci, dobbiamo andare al traffico. I funamboli. Caro Leonardo, eccomi qua. Eccoti qui. Io oggi vorrei concludere con una favola. Oh, che bello. Una favola è la prima volta che la facciamo, insomma, le favole hanno sempre un loro fascino. E quindi vi racconto questa favola, che la favola di una persona mezzo uomo e mezzo niente. E gli daremo un nome di fantasia, lo chiameremo Uoni, mezzo uomo e mezzo niente, Uoni. Uoni apparentemente non era una persona diversa dalle altre. Abitava in una casa come le nostre, aveva un lavoro normale. La differenza potevi notarla solo se lo guardavi bene, in fondo agli occhi. Perché un occhio era vivo, con la pupilla che si muoveva a destra e a sinistra, l'altro no, era persa, l'altra pupilla in un mare di niente. Eppure Uoni non era sempre stato così, era stato un bambino vivace, correva, giocava a pallone, faceva pugni con gli amici e poi era diventato un uomo. Finché un giorno qualcosa era cambiato, l'estate scorsa. Era in casa, un sabato pomeriggio. La radio si era bloccata e trasmetteva senza interruzione Despacito. In televisione repliche, ripetizioni di uomini e donne. E seduta al tavolo della cucina, sua sorella leggeva ad alta voce un numero di Novella 2000. Di colpo la combinazione di questi tre elementi fece effetto su Uoni. Despacito, uomini e donne, Novella 2000 ebbero l'effetto di far perdere un occhio di Uoni in mezzo al niente e di farlo diventare una strana creatura, mezzo uomo e mezzo niente. La mattina dopo Uoni si è svegliato e per prima cosa non ha dato un bacio a sua moglie come era solito fare da anni. Appena sveglio è corso in bagno a controllare se aveva la tartaruga sulla pancia, disperato perché non ce l'aveva. Invece di andare al lavoro è corso a comprare un elettrostimolatore ballando latinoamericano e poi a iscriversi in palestra pagando un personal trainer di grido, lo stesso di Belen. Di sera poi, abbandonato ormai anche dalla moglie, accendeva la TV e fissava in silenzio il Grande Fratello VIP, sognando un giorno di poter essere giudicato da Alfonso Signorini. L'unico giorno in cui aveva qualche contatto col mondo reale era la domenica, quando finite le partite andava al bar e parlava per ore e ore di rigori dati, non dati, di moviola, di VAR. Quando il campionato era in pausa era disperato, non sapeva cosa fare, allora vagava all'outlet e ogni tanto si alzava la maglietta per mostrare a tutti la tartaruga. Finché un giorno è sparito, non è più rientrato a casa. Secondo alcuni, un pomeriggio, mentre era all'outlet, si è perso in un mare di niente. Anche l'altro occhio si è trasformato. E adesso fa il manichino nella vetrina di un negozio di biancheria intima. Ogni tanto qualche ragazzo passa davanti alla vetrina e dice: ah, se anch'io potessi avere un corpo così e con quei tatuaggi. Allora Uoni è contento, non dice niente, ma guarda la commessa e ride. E le chiamano favole. Ma straordinario, signori, ma questa la devi pubblicare subito. Ci ha lasciato subito un graffio sul cuore. Bellissima, bellissima. Il nostro Leonardo Manera. Grazie. Eccolo qua. Sai, io vado ecco, bisognerebbe capire qual è il tuo problema vero psicanalitico con Despacito, perché non puoi odiare così tanto. No, però diciamo che si sommano, cioè Despacito, c'è la VAR, cioè, ci sono un po' di cose di cui parlare con l'analista. Sì, però per la verità io, come tutti, frequento spesso un centro commerciale vicino a casa mia e queste cose le vedo a profusione, veramente. Quindi un po' mi fanno effetto anche umanamente, devo dire. Che cosa? Vabbè. Quelle che raccontava la favola? Sì, questo mondo ormai che sta andando sempre più in questa direzione, no? Proprio questa impressione. Allora, signori, da Despacito vogliamo sfumare. Siete pronti con... intanto, vabbè, sentiamo prima se ci sta Vito da Verona. Ci sta? Sì, Vito, pronto? Deve essere brevissimo però, Vito. Sì, senz'altro. Guarda, due cose solo volevo dire. Io non capisco perché i musulmani vogliono in Italia, cioè pretendono le moschee, e io sono d'accordo che le possono fare perché è giusto che preghino, Però perché quando noi andiamo all'estero non troviamo una chiesa? Non la troviamo? Non è proprio così. Andato in Tunisia, per andare a messa ho dovuto fare 40 chilometri con uno di loro che mi ha accompagnato, che faceva paura, vero, come guidava, vero, e siamo andati al terzo, al secondo piano di una palazzina in una cameretta. Allora, questo è vero, dice Vito, la non reciprocità in Arabia Saudita, certo, se metti una croce, voglio dire, ma noi, questo dico, lo dico così, siccome noi in questo siamo più tolleranti di loro, cerchiamo non di non emularne loro gli aspetti peggiori, esatto, cioè, e poi se sanciamo che la libertà di culto deve essere tutelata e partiamo dall'assunto che sia così, allora bisogna organizzarsi, è vero, perché c'è, lo sia. La non reciprocità c'è. Però avete le palette 0-10? Ah. 0-10 voti, prontissimi. Perché il nostro grande Dejan Cetnikovic, Radio Rock, ne ha pizzicato un altro, Denis Verdini, che tra l'altro ha una voce straordinaria, Verdini, che sappiamo essere uno la cui principale passione è cantare. Canta, credo, Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? Un po' più lento, Verdini. Yes, c'è la fretta, c'è la fregola. Must wide of sail before she sleep in the sand. Beh, la voce c'è. Ci sarebbe, però è dove mandarla. Baritonale. Yes. How many times must the cannonball fly? È sul tempo dobbiamo lavorare. They are forever banned. No, il problema è che lingua sta cantando. No, dai. Aspetta. Un vero disastro. È un vero disastro. No, qui il politico, aspetti, non si ferma neanche qui, neanche quando canta si fermano. La base ci sarebbe, perché la voce è buona, secondo me. La voce c'è. Il problema è l'intonazione. Cioè, il tempo, il ritmo. Ma anche a grandi linee, dici, più o meno beccato. Però secondo me gli hanno fatto l'emendamento di cui si parla oggi nella legge, sulla legge elettorale, l'emendamento di Lupi, fatto per Verdini, è stato fatto per ricompensarlo dalla cantata. Ringrazio l'ascoltatore, bravo Vito. Milan, stia zitto, zitto. Mi ha mandato l'emoji con me muto. Va bene, dobbiamo salutare tutti. Che brutto carattere. Che brutto carattere, Vito o l'ascoltatore? L'ascoltatore. Ciao.